Buonasera, dottore. Buongiorno, dottoressa. Pronto? Sì, sì. Cioè, ci siamo un po'. Ci siamo un po'. Qua siamo dottoresse, infermiere, sì, giornaliste, conduttrice. Sì, buongiorno, salve, ascolti, niente. Bene, direi che è importante. Buongiorno, dottoressa, grazie. Ma adesso non so, dipende. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. C'è una sola cosa al mondo che il denaro non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Credo che non ci sia incipit migliore per dare inizio alla puntata di oggi, in cui vogliamo raccontarci reciprocamente quanto e perché gli animali occupano un posto sempre più importante nella nostra vita. Io credo di saperlo. Sono buoni amici, ci rassicurano, ci tengono compagnia, ci fanno divertire. Ci sanno capire quando siamo tristi, ci stanno stare vicino senza giudicarci. Così giorno dopo giorno si trasformano da animali di compagnia a membri della famiglia a tutti gli effetti e con tutti gli eccessi del caso. Parleremo anche di questo nel corso della nostra trasmissione, a cui vi invitiamo già a partecipare componendo il nostro numero verde 800 24 00 24. E quello della cura degli animali, pensate, è un settore che non conosce assolutamente crisi, lo dice la SALCO, l'Associazione Nazionale delle Imprese per l'Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia. Probabilmente gli italiani hanno preso anche una certa consapevolezza sull'impegno legato all'avere in casa un amico a quattro zampe. Chiediamo allora ai nostri ascoltatori se hanno mai calcolato quanto denaro spendono fra cibo, cure e vaccinazioni. Naturalmente anche per raccontarci tutto questo il numero verde è sempre lo stesso, è l'800 24 00 24. Anche dei denari legati alla cura dell'animale parleremo nel corso di Cuore Denari. E naturalmente chiamateci se avete delle storie da raccontarci, questo è il momento opportuno. Fateci sapere se l'amicizia del vostro cane o del vostro gatto vi ha reso persone diverse, io credo forse più ricche, migliori. Se volete sostenere questa tesi, ma anche sostenere la tesi assolutamente opposta, chiamateci. E chiamateci anche per dirci se state pensando di aprire le porte della vostra casa e del vostro cuore a un cucciolo di cane o di gatto. Telefonateci, perché vorremmo poter discutere insieme a voi questa scelta, perché come sapete deve essere ben ponderata. As much as I love you, but you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love. Vivete con un cane, un gatto, un furetto, però ci sono anche pappagallini. Avete insomma una convivenza più o meno stretta con un amico peloso, pennuto, squamoso? Raccontateci come è entrato nelle vostre case e come è cambiata la vostra vita, quanto vi dà e quanto vi costa. Chiamateci, oggi tanti amici sono venuti a trovarci. Presentiamo subito il primo qua in studio con noi. Abbiamo il piacere di avere Angelo Vaira. Ciao Angelo. Buongiorno. Allora Angelo, alcuni ti conoscono come istruttore cinofilo, altri come zoantropologo, coach, ma lascerei da parte tutte queste definizioni per andare dritto al fulcro del tuo messaggio, cioè che la relazione con gli animali possa essere una via, metto tra virgolette, intesa proprio come cammino, come percorso per conoscere se stessi ed esprimere il proprio potenziale. Giusto. Rendendo al contempo anche il nostro amico più felice e sereno. Eh sì, certo, perché poi sai, i cani ci perdonano tante cose, no? Quindi noi siamo a volte più propensi a lasciarci andare con i cani, con i nostri gatti. Il fatto è che per poter instaurare con loro una relazione corretta dobbiamo guardare le cose dal loro punto di vista, dalla loro prospettiva, e ovviamente questo esercizio, no? Cioè riuscire a capire quali sono i tuoi bisogni, perché ti comporti in questo modo, non sarà perché sei dispettoso, ma perché effettivamente mi stai comunicando che c'è un bisogno alla base. Allora, questo esercizio continuo e facile che ci rendono i cani ci rende persone migliori e ci permette anche di fare dei paralleli, perché per esempio i cani hanno dei bisogni legati a corpo, quindi alimentazione, movimento, riposo, libertà dallo stress, al cuore, quindi affettività, emotività, alla mente, quindi la scoperta, apprendere cose nuove, e allo spirito anche, perché insomma basta guardare un gatto. Eckhart Tolle, cioè un maestro di meditazione, si chiama Eckhart Tolle, dice: ho vissuto con molti maestri zen e tutti loro erano gatti. Vedi, questa piacerà questa... Debora, perché lei è molto gatta. Sono un po' gatta dentro, sì. Vedi? Insomma. E allora, già queste quattro dimensioni, sì, a volte insomma, uno le guarda e dice: caspita, ma sono le stesse che ho io. Ed effettivamente c'è una continuità evolutiva, si dice, cioè a livello anatomico, neurologico. Noi abbiamo tanto in comune con gli animali e ci dimentichiamo di queste cose. Andiamo a leggere tutte le teorie più astruse su come funziona la nostra mente, la nostra felicità, e ci dimentichiamo. Sarebbe semplice, vero? Ce l'abbiamo lì di fianco. Angelo, tu nei tuoi incontri, nei tuoi libri, durante i corsi, proponi esercizi di educazione mentale e sociale che non prevedono concetti di dominanza. Ah, questo mi piace molto. Giusto. E poi spieghi anche come accrescere l'intelligenza emotiva del cane e come sviluppare le sue capacità e competenze, ad esempio l'autocontrollo. Ma sì, ci vuoi fare qualche esempio? Beh, sì, per esempio se io nascondo qualcosa al cane e lo faccio in modo adeguato alle sue capacità, per cui ci sono dei cani che non sono ancora abituati e sono delicati, hanno magari un po' di timore, allora già mettere un bocconcino all'interno di un bicchiere di plastica per loro è un problema grosso da risolvere, no? Se invece sono dei cani capaci, che sono proattivi, fanno un sacco di cose, le cose le complichi un po', allora gli metti, che so, una pila di conetti, sai, quelli dei calciatori che fanno, sì, che usano per fare allenamento, allora gli metti un bocconcino lì sopra, gliene metti uno sopra l'altro, oppure gli fai il gioco delle tre carte, no? Sì. Sotto quale gli complichi un po' le cose. Il punto è però lasciare che il cane risolva i propri problemi da solo, cioè fare a volte un passo indietro, non anticipare tutti i bisogni, ti risolvo io le cose, ti sto dietro come tu fossi un infante. Per i figli abbiamo fatto una puntata, c'è il genitore spazzaneve, è vero. No? Quello che esatto. Anticipa, neanche con i cani. Devo dire che è Emma a nascondere le cose, sì, forse vuole allenarmi un vuole po'. Vuole farti capire che sei capace più di quanto sì. tu pensi. Ecco, le fa semplici, ma non le do soddisfazione. Intanto salutiamo e ringraziamo Fabrizio, che io ho vinto una scommessa con Debora, il caffè, perché Fabrizio è riuscito ancora prima di noi, ci siamo messi un appunto insieme ad Angelo e a Debora, ricordare subito, raccogliete le cacche, ma Fabrizio ci ha battuto, e allora un libro di Cuore e Denari a Fabrizio, che ringraziamo, perché ci racconta, ci dice che bisogna far capire a molti amici degli animali che bisogna essere anche amici del prossimo e raccogliere i bisognini, lui li chiama così, lasciati dai loro amici. Grazie Fabrizio. Fabrizio, e magari sicuramente se è un cane lo farà libreria. Anche lui. Allora, e a proposito di intelligenza, chissà quante volte abbiamo detto del nostro cane o del nostro gatto, è intelligentissimo, gli manca la parola. Qualcuno ci avrà sicuramente preso un po' in giro, ma in realtà non siamo andati tanto lontano, perché i ricercatori hanno dimostrato che i neuroni canini reagiscono al linguaggio umano in modo molto simile ai nostri. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Claudio Mencacci, direttore del Dipartimento di Psichiatria all'azienda ospedaliera Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, che tema affascinante. Sì, anche perché professore, lei si dichiari, lei è un amante degli animali, in modo particolare dei cani, cioè quasi mi va. Sì, assolutamente amante, cani di tutte le razze, meglio preferisco quelli medio grossi, però anche quelli piccolini. Quindi Emma gli piacerà moltissimo. Emma gli piace, gli ho già fatto vedere anche la foto, ma d'altra parte Emma non può non piacere. È irresistibile. Professor Mencacci, che cosa ci dice questa ricerca? Ce la spiega? Beh, la ricerca dice che l'interazione neuronale, così come avviene tra mamma, papà e bambino, e così come avviene negli umani con l'interazione del nostro cervello sociale, avviene con i nostri fedeli, o meglio, le nostre copresenze nei nostri affetti. E i neuroni si interagiscono e ne vediamo l'effetto, perché interagiscono sia nel comportamento ma anche nella cognitività, nel senso che aumenta l'interazione con loro, le nostre capacità di concentrazione, di memorizzazione, ma anche di finalizzare le azioni, piuttosto che nell'area del movimento e dell'espressività. Cioè, quindi un'interazione molto articolata e complessa, e non a caso poi diciamo che ci sono le condizioni di una reciproca somiglianza tra all'interno di questa famiglia, che è una famiglia tra specie e dovremmo dire la nostra famiglia allargata. Tra l'altro con Deborah notavamo, ma già Walt Disney l'aveva fatto, mm-hmm, che gli umani assomigliano, di riferimento assomigliano abbastanza ai loro cani, è vero? Sì, ogni tanto ci sono queste campagne fotografiche. Io ad esempio assomiglio abbastanza al mio cane, cioè ho il mio cane assomiglia a me. Ci si sceglie e si cresce assieme, quindi spesso... Proprio così. Però bello quello che ci diceva il professore poco fa, perché vedi, la relazione con gli animali, la relazione, non l'animale in sé, la relazione con lui è un mezzo per poter evolvere. Di nuovo, certo, ci torniamo. Certo. 800 24 00 24, mi scusi professore, l'ho interrotta, sono tantissimi già gli ascoltatori che ci stanno chiamando. Hanno veramente mandato a fuoco il centralino stamattina. Parliamo di cani, ma naturalmente gatti, coniglietti, furetti, perché ci sono... 30 milioni di pesci nelle case degli italiani, ma vogliamo parlare di questa cifra? Speriamo che li trattino bene, non nella boccia. Ah sì, vanno di moda questi acquari così colorati, insomma, un po' per arricchire anche gli ambienti. Angelo, il professor Mencacci ci ha spiegato che i neuroni canini, insomma, reagiscono al linguaggio umano. Gli animali ci capiscono, ma spesso siamo noi a non capire loro. Incomprensioni, magari anche piccole, ma che possono interferire sulla relazione, limitando sia il benessere dell'animale che quello dell'umano di riferimento. Qual è la tua esperienza riguardo e soprattutto quali avvertenze e consigli puoi dare agli amici all'ascolto, che invitiamo come sempre a mettersi in contatto con noi per segnalarci degli dubbi, magari il carattere del loro animale è cambiato, pensano ad essere diventato magari un pochino meno socievole, un po' più aggressivo, abbaia di più, o è triste. Angelo. Beh, allora, nella mia esperienza una frase è chiave: un cane che non ascolta è un cane che non è ascoltato. Cioè, significa che se il mio cane mi fa i dispetti, come si chiama, come molta gente chiama, in realtà lì il cane non ha cognizione di fare il dispetto. Il cane che scava le buche in giardino, per esempio, è un cane annoiato, è un cane che non esce, è un cane che fa poco. E voglio dire, se è un essere vivente, quindi vivo, proattivo, che fa delle cose, come se tu non lo fai uscire, non lo fai giocare, lo releghi al giardino, non ha contatti con te, e qualche cosa si dovrà pure inventare questo cane. Certo, no? Quindi fa i buchi. E quindi fa le buche in giardino, ma meno male per lui, perché altrimenti impazzirebbe. No? Quindi quello che devo riuscire a capire è il perché il cane si comporta in questo modo. Di nuovo è una palestra, no, per noi, un modo di capire le cose dalla prospettiva dell'altro. Professor Mencacci, diventano membri a tutti gli effetti della famiglia, ma vorrei commentare con lei i dati di una ricerca condotta da Astre Ricerche per Grassadelic, un'azienda di pet food, sul rapporto tra noi e gli animali. Secondo questa ricerca, il 68% degli italiani, inclusi non possessori di cani e gatti, dichiara di conoscere persone per le quali gli amici a quattro zampe sono a tutti gli effetti, come fanno parte proprio della famiglia. E una volta adottato, l'animale da compagnia entra a far parte della quotidianità, al punto da essere trattati in alcuni casi più che come familiari dei veri e propri bambini, no? Ecco, questo insomma atteggiamento suscita disapprovazione e indignazione. Insomma, professor Mencacci, io credo che anche in questo caso il problema sia un po' la misura. Non sono bambini, ma quando entrano nella nostra casa di loro ci occupiamo, e con loro, come sottolinea Angelo, instauriamo una relazione di dare, di avere, ecco. È proprio questo. Quando diciamo il termine relazione, vuol dire che da entrambi le parti ci sono un interscambio, potremmo dire, di diritti e doveri. La possibilità proprio che questa convivenza, questa relazione che stabiliamo, vuol dire che con loro viviamo tutte le nostre emozioni, sia di felicità, sia di dolore, sia di comprensione che anche di compassione. Ed è proprio questa l'esperienza che fa sì che debbano essere rispettati nella totale dignità e della, come dire, dell'equilibrio che ogni relazione deve portare con sé, perché anche i bambini crescono e quindi anche il trattarli sempre in maniera infantilizzante gli animali non permette lo svilupparsi di una relazione. E poi non dimentichiamoci che ogni animale all'interno del suo esiste una gerarchia e questa gerarchia è quella che, come dire, va rispettata e va rispettata in, come tutte le famiglie, il, come dire, le relazioni che vengono stabilite. Io ho un aneddoto personale di una nostra presenza in cane di Ginevra, che purtroppo adesso non c'è più, e che nella scala gerarchica che lei aveva in mente era quella di venire prima del mio secondo genito, e quindi lei si considerava lei il secondo genito e quello il terzo genito, e questo si creava qualche problema sui posti a tavola. Ma in che cosa lo manifestava? Lo manifestava che se lui arrivava in ritardo si sedeva prima lei al suo posto facendo finta di niente. Per cui, come, no, è cioè, una bellissima posso storia. Dire una cosa, Nicoletta, mi aggancio a quello che diceva il professore, perché il fatto di amare tanto gli animali è un esercizio dell'attitudine. Una persona che ama tanto gli animali è più facile che si metta ad amare anche le persone e via dicendo. Allora, perché non ci siamo dei dubbi? Perché sviluppa l'empatia. Sì, è più che non è compassione, che l'empatia è un coinvolgimento che richiede una serie di anche un po' più direi che sviluppa i suoi sentimenti. Perché la cosa più importante è questa, cioè sviluppare i nostri sentimenti, e questo ce ne dà una grande opportunità, perché se in questo senso, come neanche nelle relazioni umane, dobbiamo essere in grado di farli accrescere. Grazie professor Mencacci, grazie, ne approfittiamo per augurarle un Natale felice. Noi ci sentiremo sicuramente nel 2015. Un abbraccio grande. Grazie a voi. Nella vecchia fattoria, ia ia o, oh, quante bestie a ziotopia, ia ia o, oh, c'è la capra, capra, capra, nella vecchia fattoria, ia ia o. Oh. Allora, abbiamo il domandone di oggi, diteci chi sono Rollo, Carlo e Barone e che cosa hanno in comune, raccontatecelo all'800 24 0024. Carlo non è tuo marito. Carlo non è mio marito. Ecco, non è, cioè, nel senso, però, del quizzone, ecco, se venisse in mente agli ascoltatori di rispondere, dopo Emma conosciamo tutto il nucleo familiare, non è lui. È Carlo, però, no. Ecco, però si chiama Carlo, ecco. ed è vicino a Carlo mettiamo Rollo e anche Barone. Chi sono e che cosa hanno in comune? Bene. Apriremo nella seconda parte della trasmissione la nostra libreria. Intanto abbiamo i nostri ascoltatori che ci stanno chiamando. Dove andiamo, Deborah? Andiamo subito a Livorno da Massimiliano, che salutiamo, e poi è pronto anche Paolo dalla provincia di Vicenza. Ma veramente stamattina siete in tantissimi. Massimiliano, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Cosa ci racconta? Io ho due cani, una bambina di 2 anni, e secondo me ho sempre desiderato avere il cane perché dà stabilità anche ai bambini. Io sono crescere, convinta della stessa cosa. Sì. Li fa crescere con consapevolezza che ci vuole rispetto, intanto per i cani in questo caso, ma anche per le persone. È un altro, io ritengo che il rapporto con un animale sia importante per un bambino, poi anche per gli adulti, questo, perché sono uno sfogo di stress quando arrivi a telecoccoli, insomma, ti danno quella la capacità di poterti rilassare. È vero, Angelo. È. Cani e bambini. Cioè. Indicazioni, perché tu sai che ci sono delle famiglie in cui magari proprio in occasione del Natale entrerà un cucciolo, ne parleremo, soprattutto se state pensando di aprire le porte a un amico peloso. Sì. Ecco, parleremo nel corso della trasmissione. Intanto, se avete dei dubbi, il nostro numero verde e soprattutto Angelo Vaira è a disposizione. Ma, sai, cani e bambini, la cosa che accade più di frequente è che bisogna proteggere il cane dal bambino e non viceversa, no? Nella mente di molte persone dice: ma come faccio ad far approcciare il mio bambino al cane? Magari il cane gli fa male. Nella stragrande maggioranza dei casi è il cane che va protetto dal bambino, con sì, un cancelletto per bambini, con le tre famose S che io consiglio sempre: supervisione, supervisione, supervisione. Perché tante volte, cioè, una volta mi è capitato quest'estate, una signora mi ha detto: guardi, lo so, mio cane era bravissimo, l'ho lasciato insieme a mia nipote, è stato morso, nessuno era in giardino con loro, non so sa che cosa abbia fatto questa nipote di 6 anni, il cane la morsa, non gravemente per fortuna, no, però la supervisione ci vuole sempre. E quando un cane ti detta dei limiti, cioè tipo sono sdraiato e non desidero che il bambino si avvicini in questo momento perché magari sono anziano, ho dolore o non c'ho voglia, semplicemente il compito del genitore non è quello di rimproverare il cane e dire no, tu devi accettare mio figlio sempre, perché altrimenti non è relazione questa, è insegnare al bambino che all'interno di quel corpo peloso c'è una mente, ci sono delle emozioni e quindi anche l'altro ha dei tempi, cioè adesso vuole giocare, adesso vuole riposare, adesso addolora, non ci si può avvicinare, c'è un mondo dall'altra parte. Ecco, così il bambino cresce, sviluppa intelligenza sociale. E con i gatti, Deborah? Allora, io ho avuto delle esperienze meravigliose, ho avuto gattine che ho fatto partorire e ho avuto queste emozioni che piccini, incredibili, che sono bellissimi. L'ultimo gatto che ho avuto era un gatto di città che poi ho portato alla mia mamma nelle Marche. E anche c'era questo rapporto speciale, perché quando io arrivavo da Milano, andavo nelle Marche, aprivo la valigia, la prima cosa che lui faceva sempre era di infilarsi nei miei odori, quindi ero proprio la sua mamma, non c'era niente da fare. Però è diventato immediatamente un cane di campagna, lo trovavo sempre graffiato, ha fatto la piacevole conoscenza con le gatte, per cui devo dire che il suo trasferimento, il trasloco, esattamente, è mancato, perché, e tra l'altro poco prima anche di mio papà, al quale si era molto affezionato e... Beh, insomma, io sono un amante del gatto, cosa ci volete fare? Allora, andiamo nella provincia di Vicenza, c'è sì. Paolo, benvenuto. Paolo, sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno splendide, bravissime signore intanto. Grazie Paolo, chiami tutti i giorni. Lei deve chiamare più spesso, e anche su altri argomenti, anche se non sa, chiami lo stesso, ci dica. No, no, lei, voi fate delle bellissime trasmissioni. No, allora, quello che volevo dire, io fino a 10 anni fa avrei giurato che a casa mia un cane non avrebbe mai messo piede. Ecco, la frase famosa. Ma, esatto. ma lo dico, cioè, ma perché non ero abituato, non ho mai avuto un cane, non, li ho sempre visti da un'ottica forse sbagliata, non lo so. Poi è successo che dei bambini, figli di una mia amica, hanno trovato questo cucciolo abbandonato in un giardino, in un parco pubblico, ed era molto molto piccolo, aveva 1 mese di vita, e la mamma di questi bambini mi ha detto: guarda, io ho già 2 cani, non so. Ho detto: vado a chiamare la mia compagna, vedo cosa ne dice. E morale della favola, ce lo siamo portati a casa, ce la siamo portati a casa, era una cagnetta, sì. Aveva 1 mese di vita e ci stava in una mano da quanto piccola era, è diventata subito la mascotte certo. dei bambini del condominio, oltre che col tempo poi un'amica inseparabile nostra, dove la portiamo in ogni qualsiasi ecco, sempre luogo. Con voi. Forse noi arriva un momento della, non capita a tutti, ma un momento della nostra vita in cui siamo pronti. A un certo punto. Paolo, racconta un po' questa storia. Ci sono tante persone che dicono: a casa mia il cane mai. E poi trovi, no, un cane che ti guarda e tu dici: sono mio. Io per esatto. lui e lui per me. Guarda, io ricordo un mio cliente. Vero Paolo, che è così, eh? Sì, no, ma io onestamente, guardate. Sono talmente ormai attaccato a questa cagnetta, e di cui io porto rispetto alla mia cagnetta, e lei me ne rende 10 volte tanto. Io in qualsiasi luogo dove non mi accettano entrare con la cagnetta, io non ci vado, ho chiuso. Io chiedo sempre: posso entrare con la Emona? E se mi dicono di no, naturalmente non entro, certo, vado via. Evidente. Grazie Paolo, un abbraccio e un augurio da parte mia di Deborah. Buona giornata. Voi, buona giornata. Grazie. Adesso dobbiamo. Sì, poi Angelo voleva raccontare qualcosa a proposito di questo caso, ma abbiamo la guarda, abbiamo la borsa. Purtroppo. Allora, la finanza chiama, che dobbiamo fare? A tra poco. Cuore e denari. Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario? Negli ultimi ultimi anni, insomma, sono successe anche tantissime cose, come per esempio la nascita delle professioni legate al mondo degli animali, no? Angelo, tu formi educatori cinofili, chiamiamoli come vanno chiamati, naturalmente. Una professione che davvero fino a qualche anno fa non veniva neanche minimamente contemplata. Sì, o veniva contemplata soltanto da pochi appassionati, erano i cosiddetti addestratori, cioè quelli che rendono abili il cane a fare alcuni sport, alcune cose. Oggi invece è diventato un po' di dominio comune, cioè uno quando adotta un cane già comincia a pensare, caspita, forse ci vuole l'educatore cinofilo. Questo anche perché ti guida alla scoperta no, del cane. Senti, però è un... per la parte di denari noi siamo molto interessati, no? È una professione che no, indicata che caratteristiche bisogna avere e poi diventare una professione, un lavoro. Altro che il dog sitter, insomma, adesso poi magari bisogna vedere come disciplinarlo fiscalmente, perché questo è un altro paio di maniche, però... Allora, l'educatore cinofilo, io ho per esempio un caro amico, conosciuto perché era un mio allievo, che ha lasciato il suo lavoro da ingegnere per diventare educatore cinofilo. E come lui, insomma, ce ne sono tanti altri. È ovvio che in un paese come il nostro, che in questo momento dal punto di vista economico non se la cava così tanto bene, le cose non sono facili, però è un lavoro che ti mette a contatto con la gente, con la psicologia, con la relazione con gli animali, poi devi imparare a farti conoscere, perché tu una volta che diventi bravo devi anche essere lì che devi imparare come farti conoscere, e il volantino e la presenza marketing di se stessi, insomma, quindi impari veramente tante cose. E poi, e questo magari è un appello anche che faccio agli ascoltatori, non pensate che se tu diventi educatore cinofilo ti dedichi soltanto al cane, perché per riuscire ad entrare bene in una famiglia devi relazionarti tanto con le persone, però l'animale umano è altrettanto affascinante. In un canale del digitale terrestre c'è anche un reality, il mio gatto indemoniato, mi pare che si chiami, non so se l'avete mai visto, c'è questo educatore che entra nelle case di queste famiglie americane con dei gatti mai visti, perché io non ho mai avuto questa esperienza, insomma, con anche dal punto di vista del gatto, insomma, un animale così complesso, ce ne sono anche loro che hanno dei caratterini, insomma, di tutto rispetto. Andiamo un po' alla parte di denari, Nicoletta, tante cose interessanti da raccontarvi. Allora, secondo i dati Eurispes del 2014, più della metà dei possessori di animali da compagnia, oltre il 52%, afferma di spendere in media meno di 30 euro al mese per il fabbisogno nutrizionale, igienico e sanitario dell'animale, il che significa per mantenere dignitosamente un animale si arriva a spendere circa un euro al giorno, quanto un caffè. E quasi il 33% della popolazione monitorata da Eurispes arriva a spendere fino a 50 euro al mese, quindi circa 1,60 euro al giorno, un cappuccio, meno del costo di un quotidiano. Comunque, ecco, qua infierisce Eurispes su questa cosa. Restano poi circa l'11% della popolazione che dichiara una spesa fino a 100 euro, e c'è anche chi arriva a spenderne oltre 200. E quindi tu hai mai fatto un calcolino? No, non ho fatto i conti. Adesso, intanto che tu leggevi i dati, adesso ci penso. Però certo che Emma, devo dire che è magna, perché sono 33 chili di cane. Per cui, però insomma, pare che poi, la crisi... Poi ci sono, sai, vaccinazioni, controlli, insomma, il costo c'è, obiettivamente. Però la crisi non ha minimamente intaccato questo settore, che allora noi commentiamo un po' questi dati con chi ne sa. Volevo salutare il presidente di Assalco, Gianmarco Ferrari. Assalco è proprio l'associazione nazionale tra le imprese per l'alimentazione e la cura degli animali da compagnia, che naturalmente riunisce le principali aziende dei settori pet food e pet care che operano in Italia, oltre il 90% del mercato nazionale degli alimenti per animali da compagnia. Presidente, ho detto tutto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno dottoressa Carbone, dottoressa Rosciani, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, ha detto tutto. Ecco, quante imprese del settore, presidente? Ci racconti un po' di dati, ci dia un po' più di ciccia rispetto alle prime sommarie indicazioni. Qualche crocchetta, esatto, che ho dato io, ci dica. Certo, allora Assalco raggruppa 33 operatori tra produttori e commercianti nel settore del pet care, cioè la cura dell'animale, che raggruppa l'alimentazione, ma non solo. Quindi sono 33 aziende che, come lei ha detto, rappresentano circa il 90% del mercato nazionale. Il nostro mercato che cresce, per fortuna, si parla nel 2013 di 1.800 milioni di euro, che è cresciuto dell'1,7% rispetto al 2012, e devo dire questo trend positivo rimane sostanzialmente confermato nel 2014. È un mercato che gode del fatto che i prodotti, l'alimentazione industriale viene vista dal consumatore sempre più come un'alimentazione nutrizionalmente corretta e sicura dal punto di vista qualitativo e igienico. Quindi l'attenzione dei proprietari alla salute e al benessere degli animali, diciamo, si rispecchia in questi dati di mercato. Tanto è vero, Presidente, che poi la vostra organizzazione non si occupa solamente chiaramente di business vero e proprio, no? Voi sviluppate anche tante indagini e tante relazioni per andare un po' a scandagliare il mondo della relazione tra famiglie e animali, affinché questa relazione chiaramente sia... Per monitorare se è una relazione sana, responsabile, no? Per verificare anche quali sono i benefici nel rapporto tra uomo ed animale. Che cosa hanno scoperto le vostre inchieste interne all'associazione, diciamo? Noi nel 2013, poi abbiamo ripetuto nel 2014, abbiamo commissionato due ricerche. La prima, dai RAI, ci dice che il 90% dei proprietari di animali d'affezione si ritengono aiutati in momenti di crisi di incertezza, come quelli ad esempio attuali, no? Con la crisi dal punto di vista economico. Un altro dato importantissimo è che vengono visti come un aiuto a tenere unita la famiglia, in quanto trasmettono gioia, buon umore, l'abbiamo sentito anche dei vostri radioascoltatori prima, ci sentiamo di confermare assolutamente. Un'altra parte importantissima riguarda il rapporto con i bambini, vengono visti come un aiuto nel costruire relazioni, certo, utili e ad accrescere il senso di autostima, molto importante. Anche per gli anziani ci sono dei lati positivi, fanno restare attivi, banalmente essere costretti a portare il cane a passeggio tutti i giorni è un bel aiuto. Certo. Presidente, dopo cane e gatto, quali gli animali maggiormente presenti nelle case delle famiglie italiane? È vero che ci sono più di 30 milioni di pesci? Sì, è vero, è vero, ci sono 30 milioni di pesci e poi abbiamo circa 13 milioni di uccelli. E poi ci sono anche le tartarughe. Ci sono le tartarughe. Stefano, mi scusi, ci scrive da Udine: Camilla, la mia tartaruga mi ha insegnato che non solo i classici animali da compagnia hanno bisogno di affetto. Certo. Adesso in letargo, ma in primavera è una gioia rivederla. È vero, perché va nel letargo tartarughine, ma certo. che tenerezza. Che poi diventano anche tartarugone. Altro che. Diventano. E belle. Quindi insomma 14 milioni di uccelli, tartarughe, pesci, ma a parte l'alimentazione, Presidente, cosa fanno le famiglie per il benessere degli animali? Perché io raccontavo a Nicoletta, sabato ero proprio in questo centro specializzato, ho visto questo allestimento incredibile di prodotti per la cura degli animali, da che ne so, allo shampoo alle erbe, quindi c'è veramente ormai un'espansione del mercato incredibile. Certo, come dimostrano gli studi e i dati di mercato, gli animali da compagnia sono a tutti gli effetti dei membri delle nostre famiglie, sì. Quindi vivono a stretto contatto con noi e hanno delle esigenze legate ai propri bisogni, ma anche ai bisogni della famiglia, no? E quindi l'igiene è molto importante, quindi ci sono sul mercato tutta una serie di prodotti adatti alla cura del corpo, del pelo e dell'igiene in generale, articoli per la masticazione, ad esempio, molto importante l'igiene orale. E poi quello di gomma, quello finto. Quello di gomma, ma anche non di gomma, ci sono anche degli snack, quindi dei prodotti edibili che aiutano a ridurre il tartaro, ad esempio. Ovviamente le famiglie spendono per il veterinario, possono arrivare a spendere tra i 100 e i 200 euro all'anno anche per le spese veterinarie, ovviamente. Presidente, certo. Ferrari, ma lei ce l'ha l'animale in casa? Guardi, io in famiglia l'avevamo fino a poco tempo fa, purtroppo è mancato. E arriva sempre quel momento di sbandamento in cui dice no, non lo rivoglio più, mi sono affezionato. No, no? Esattamente, ma noi adesso stiamo facendo una scelta consapevole, come è giusto che facciano tutti i proprietari, abbiamo in i nostri abbiamo figli piccoli e quindi stiamo, come dire, decidendo qual è il cane. Noi siamo più orientati al cane, più adatto per noi, quindi certo. Penso che in primavera avremo un nuovo membro. Allora ci tenga informati, Senz'altro. Che vogliamo dire la nostra, soprattutto vogliamo farla dire ad Angelo Vaira. Ecco. C'è un'età in cui è più bambini troppo piccoli, se uno decide di far entrare un animale a casa, un cane o un gatto, e ha dei bambini piccoli, c'è un momento c'è un'età, bisogna soltanto sapere che quando il bambino comincia a gattonare è un momento critico che va seguito perché è delicato, insomma, però non c'è una controindicazione sulle età dei bambini, anzi. Le mie bambine hanno imparato a camminare, ho le foto, adesso Deborah te le porto, attaccate praticamente alle orecchie o alla schiena di questo grande cane che aveva la mia mamma, che era un meticcione, che adesso io me le ricordo, adesso quando le guardo dico ma guarda quanto erano piccole, e in effetti lui è stato un santo perché erano leggere, ma è stato praticamente proprio il loro girello, ecco, hanno avuto come un girello peloso. Invece io il famoso gatto che ho portato da Milano nelle Marche è cresciuto con Michele, con mio primo nipote, e abbiamo delle foto di cui lui si mette cavalcioni sul gatto, questo gatto che sta lì, poveretto, un maschione, quindi era anche abbastanza fisicamente prestante, era bello, era veramente bello, Picciolo si chiamava, un gatto macio. Presidente Ferrari, bocca al lupo per la vostra attività che è piuttosto florida e fiorente, meno male. Grazie. Mi raccomando, aprite centri, assumete persone, che questa secondo me è la cosa più importante. Quello sicuramente è il nostro intento, è quello di sviluppare questo mercato. Benissimo, ci risentiamo più avanti magari con altre puntate. Volentieri. Intanto il domandone per i nostri ascoltatori, se la sono dimenticata la domanda, perché qualcuno sta rispondendo, è difficile, esatto, la carica dei 101, acqua. Allora, chi sono Rollo, Carlo e Barone? Sono tre personaggi legati a tre opere letterarie. Posso dare l'aiutino? Dai. Ormai l'ho dato. E che cosa hanno in comune? 800 24 00 24, il numero verde per le vostre risposte che potete darci dopo che abbiamo sentito cosa sta succedendo sulle strade italiane. Cuore e denari. Quanta fretta, ma dove corri? Se ci ascolti per un momento capirai. E voi ci state ascoltando e state chiamando l'800 24 00 24. Stiamo parlando della relazione tra noi e i nostri amici animali, e inizierei subito dando la parola ad Enea da Terni, che raccontare che Enea vuole contestare una tesi. Enea, benvenuto, grazie per aver chiamato. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Io volevo essere un attimo fuori dal coro. Bravo Enea. E magari posso sembrare anche cinico, però. Ah no, perché? Per me questo affetto che riversiamo sugli animali ormai è solo una moda. Una moda che a volte a me mi infastidisce, perché magari cammino per il corso della mia città e vedo ragazzette col cagnolino a spasso, e la notte invece la incrociano, la porta la badante rumena e neanche fanno finta di non conoscerla, perché magari è meno in, è meno figo andare in giro con la nonna invece che col cagnolino, fa moda, ecco. Io questo aspetto mi dà fastidio, che forse si potrebbe fare tutte e due le cose, però, non è che una cosa esclude l'altra, però purtroppo sta diventando sempre più questo l'amore che è riversato più sugli animali che sulle persone. Questo stavo dicendo poco fa, i soldi che si spendono, io vedo delle vetrine con i manichini e delle copertine dei cagnolini, poi sento magari la Marcuzzi che invita a dare 15 euro per adottare un bambino a distanza, che penso che sia molto più... Non possiamo non considerare che c'è, lo chiamavano ecosistema, no? Però c'è un sistema di cui facciamo parte. Se noi dovessimo eliminare gli animali e non occuparci di loro, non esisteremmo più. Gli animali ci forniscono sogni, ci forniscono emozioni, ci forniscono vestiario, ci forniscono cibo, ci forniscono intrattenimento. Non possiamo esistere senza gli animali. Se la razza umana scomparisse domani, tutto il resto del mondo camperebbe. Se scomparissero soltanto le api, ci sarebbe una tragedia, cioè il mondo non esisterebbe più. Dobbiamo capire che abbiamo un ruolo, ed è quello anche di tutelare gli animali. Ora il punto è come. Cioè, è vero che io non posso, cioè, devo stare attento a come amo un cane non posso trattarlo come un bambino, altrimenti lo tratto male, però di questo ne parleremo dopo. No, no, possiamo così, abbiamo iniziato e vogliamo sottolineare questo. Poi non ci sono, cioè non è che se io ho un cane non sono motivato a fare un'adozione a distanza. Anzi. O ad aiutare un bambino. Cioè non è Anzi. Che noi dobbiamo sempre o questo o l'altro. Comunque ringraziamo molto il nostro amico che ci ha chiamato. Max da Pinerolo ci scrive, sì. Deborah, a proposito dei gatti. Sì, è vero, il gatto aiuta a tenere unita la mia famiglia. Mia moglie dice che se non fosse per il gatto mi avrebbe già cacciato. 800 24 00 24 ci sono degli ascoltatori che, come il nostro amico Enea, sottolineano che si spende per un cane quanto per un'adozione a distanza, con tante persone anche nelle nostre città che sono indigenti. Certo. Poi racconta un'ascoltatrice, ci segnala giustamente, perché noi non l'abbiamo fatto, io come donna di denaro dovevo farlo, le cure veterinarie si possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi, per cui brava Elisabetta che l'ha ricordato. Ma noi ci ha anticipato solo, perché in linea con noi abbiamo la nostra dottoressa Lorella Notari, medico veterinario. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta, buongiorno Angelo. Lorella, ciao. Eccoli, ecco, dico nostra perché è anche un'esperta del Daily Lab, e a proposito del Daily Lab, proprio oggi ha messo un post sui botti di Capodanno che spaventano molto, vero, i cani, ma io penso anche i gatti, dottoressa Notari, o no? Sì, anche i gatti. Anche i coniglietti, anche nani. Sì, sì, hanno altre strategie meno evidenti, e quindi le persone spesso si preoccupano meno dei gatti o dei coniglietti, però anche loro sono molto sensibili. Anzi, il gatto è particolarmente sensibile ai rumori, e anche il coniglio ovviamente. Dottoressa Notari, allora prima abbiamo fatto un punto, come da nostra abitudine, economico sulla questione dell'avere in casa naturalmente un animale da compagnia, e un mercato che, per quello che riguarda l'alimentazione e la cura appunto dell'animale, è molto florido. Mi chiedo se lei abbia anche qualche dato relativamente al tema delle vaccinazioni e controlli, quanto spende una famiglia per questo aspetto, o quantomeno quanto sarebbe, come dire, a livello basico necessario spendere per l'ordinaria manutenzione di un animale da questo punto di vista. Ok, diciamo, teniamo presente che il primo anno del cucciolo o del gattino è sempre un anno un pochettino più impegnativo, perché ovviamente ci sono più vaccinazioni da fare e anche più controlli, come per i bambini piccoli, no? Però diciamo che nella media, se l'animale sta bene e fa solo i controlli, una media di 200 euro all'anno per i cani, ma direi anche per i gatti, ecco, è più o meno quello che, ripeto, il primo anno è sempre un po' più costoso, perché comunque per esempio per i cani ci vogliono più richiami, poi ci sono generalmente un po' più di controlli, anche perché il trasferimento nella nuova casa è sempre un fattore di stress, quindi facilmente si sviluppano diarree, piccoli problemi cutanei, cose di questo genere. Per i gatti è necessario fare i test per escludere la presenza di malattie infettive che possono avere preso nel luogo di origine, però poi più o meno il costo è questo, quindi meno di un caffè al giorno, però è molto importante perché vivono a strettissimo contatto con noi. I coniglietti anche loro hanno bisogno di controlli almeno un paio di volte all'anno, e hanno bisogno anche loro delle loro vaccinazioni, perché anche loro vivono a stretto contatto con noi. Per quello, un mondo dei coniglietti di cui si parla poco, ma sono anche loro, ecco, ma diffusi. Ne parlano i nostri ascoltatori, dottoressa Notari, anzi c'è un appello al 349-238-6666 di un ascoltatore che non si firma, ma che ci dice che chi compra un coniglietto domestico non dovrebbe tenerli in gabbia. Esatto. Chi avesse invece queste intenzioni prende un criceto o una cavia. Dottoressa Notari, l'indicazione è buona? Cioè... guardi, io tra l'altro mi sono occupata tanto di comportamento e benessere del coniglio. Purtroppo i coniglietti vengono venduti con la gabbia, poi crescono e non riescono nemmeno a stirarsi. I problemi più grandi che noi vediamo sono proprio quelli legati alla mancanza di movimento e a un'alimentazione scorretta. Perché cosa devono mangiare i conigli? Beh, devono mangiare le tre F anche loro, fieno, fieno, fieno. Fieno, fieno, fieno, le tre F. Tu hai detto le tre S e le tre F, tutte le tutte consonanti che beh, vabbè, sono con cui sintetici io non vado d'accordo. E FS. Messaggi sintetici ed efficaci, però. Dottoressa notario, Deborah se la ride. Abbiamo detto che li trattiamo un po' come bambini, membri. Allora, vaccinazioni sì, abbiamo fatto anche, Deborah ci ha fatto fare due conti. Quali sono le altre avvertenze per chi vive con un animale, che dormono nel nostro letto, si siedono vicino a noi a tavola, chiedono il cibo, ci sono ecco, delle magari ecco. Quello possiamo anche evitare di taglierlo da tavola per varie svariate ragioni. C'è però anche il tema del metterli a letto, di farli infilare in mezzo alle lenzuola. Molti ascoltatori sollevano anche questo aspetto che non tutti apprezzano. Ecco, due cose da lei ci dica due cose da evitare, ecco. Allora, direi sicuramente da evitare metterli proprio sotto le lenzuola, perché non è che si possono sterilizzare le zampe, no. In genere non li mandiamo a passeggiare con le scarpe. Sì. E quindi direi che magari ma con i tacchi ha qualche problema, però un po'. Ecco, ok. Per i gatti facciamo sempre delle eccezioni, anche perché molti gatti vivono stanno solo sempre in casa, quelli. E quindi non mi pronuncio. Poi sono più pulitini, su. No, i gatti, mi come? Sembra. Sono più puliti dei cani. Sì, no? Sì. Sono più puliti. Diciamo che il periodo in cui vanno in calore, come si dice, in realtà il mio aveva certe avventure in giro, che tornava a casa, che era tutto un però programma. Però sono autopulenti, dai, rispetto ai cani. Che vivono solo in casa difficilmente danno problemi dal punto di vista igienico, più che altro c'è il problema delle allergie, che purtroppo il gatto è un soggetto frequentemente allergogeno. Esatto, l'epitelio è incredibilmente irritante per le mucose nasali. Anche se poi ci sono anche degli stratagemmi, delle cose che si possono fare. Quindi diciamo sotto le lenzuola il cane magari, se si può evitare, direi che è meglio. E come seconda raccomandazione prima di salutarci? Lavarsi sempre bene le mani, per i bambini soprattutto. Grazie dottoressa notari, ricevuto, auguri. Grazie molto. Grazie Lorella. Andremo. Allora, abbiamo Flavia? Abbiamo Flavia, posso velocemente leggere il messaggio di Stefania, molto bello, perché mi ha fatto ricordare di un'altra trasmissione, adesso vi spiego la liaison che ho fatto. Ho adottato due cani disabili, Matteo e Bottone, trovati sul mio cammino lavorativo, vederli rinascere, correre su due ruote è una gioia che non apprezzo. Perché ho voluto segnalare il messaggio di Stefania? Perché in una trasmissione fatta in passato sulle persone che hanno perso il lavoro e che adesso tentano di riciclarsi con magari professionalità del tutto diverse, un ragazzo di nel Lombardo, non mi ricordo di che provincia, c'era Walter Passerini con me, ci ha raccontato che per hobby costruiva questi carrellini per gli animali, ne ha dovuto fare la sua professione perché non c'è nessuno che li fa. Lui ha allestito il suo sito internet in cui si dedica esclusivamente a questo, costruire proprio tutto il piccolo impiantino per gli animali che non riescono, che devono deambulare. Bellissimo. Io tra l'altro sai che ho Jean-Pierre, no? Che cammina sul carrellino. Come si chiama questa ascoltatrice? Stefania è l'emblema del vero cinofilo, perché conosco molti cinofili che sono così attaccati ai supercani di razza e tutte queste cose qua, che vanno benissimo per carità, però se rimani fissato su quella roba ti perdi invece tutto un altro mondo, come ci insegna questa ascoltatrice, che invece è degno di nota. Allora, ripetiamo i nostri nomi, non sono i tre topolini di Cenerentola neanche i tre porcellini, sono Carlo, Rollo e Barone. Che cosa hanno in comune, chi sono? Cuore e denari. Che pane delizioso. Grazie. Macchie? Sì, è un dalmata. Ti ispira? Sì. Tesoro, parlami meglio di queste macchie. Io ho usato quelle di leopardo negli anni '80. Ma le macchie dei dalmata sono un po' diverse, no? Cordiali. Calorose. Classe. Meno vistose. Esattamente. Ti piacciono le macchie, Frederick? Oh, non penso, madame. Credevo ci piacessero le strisce quest'anno. Che razza di leccapiedi sei tu? Ehi. Io comincio a vedere macchie. Eccoci ritrovati insieme nella seconda parte di Cuore e Denari, oggi interamente dedicata alla nostra trasmissione ai nostri amici animali. L'abbiamo anche un po' organizzata un po' per sensibilizzare sull'argomento quelle famiglie che vorrebbero, questo periodo natalizio, allargarsi con l'ingresso appunto in casa di un amico a quattro zampe, un amico peloso. Allora, questo messaggio di Guglielmo ci ha attirato la nostra attenzione. Ho un buonissimo boxer da 4 anni, ma da 10 giorni che la mia compagna è venuta a convivere con me, la osteggia in tutti i modi. Insomma, fa un po' la suocera. Le inibisce circolare per casa, avvicinarsi a me, è gelosissimo, la considera un'intrusa nel suo territorio. Beh, allora, Angelo. Qui il discorso è innanzitutto molto meglio se lui si fa guidare da un esperto. Io adesso non so come possa reagire questo cane, però ci sono dei cani che in situazioni come questa mordono. E allora, a parte i miei consigli che possono essere utili, io gli chiedo espressamente poi di lavorare con un esperto. Allora, territorio neutro. Il cane e la sua fidanzata devono passare più tempo fuori di casa, cioè fuori in un territorio che per il cane non è il suo. Questa è la prima cosa. Poi chiedersi che cosa è importante per questo boxer. Può essere il momento della papa, il momento di andare a fare un giretto. Lei dovrebbe essere quella che dispensa queste cose che sono molto belle. Cioè il nostro ascoltatore dovrebbe legare maggiormente le belle emozioni del cane alla presenza di questa persona. Insomma, queste sono già sì, consigli che valgono vari. Anche per gli umani, sì. Se tu pensi, sì, no? Sì, sì. Ecco. Poi voglio dire, sono 10 giorni, quindi diamogli un po' di tempo. Dobbiamo dargli un po' di tempo e aiutarlo in questo dopo modo. Dopo 4 anni di, diciamo, relazione assoluta con questo suo titolare, sì, poi a volte suo padrone. È anche una questione di, proprio di posizioni, cioè lui dovrebbe essere dalla parte della fidanzata, dovrebbe far percepire al cane che adesso sono insieme. Cioè se il cane fa qualcosa, per esempio ringhia, lui non dovrebbe essere a fianco al cane, perché in questo modo gli direbbe fai bene, ma dovrebbe essere a fianco della fidanzata, come a dire al cane ma che cosa stai facendo, vai via. Dovrebbe okay. mettersi in mezzo, dividere, dovrebbe far capire me ne occupo io di questa cosa, non sei tu che devi occuparti di chi c'è qui dentro. Allora aiutiamo anche un'altra nostra ascoltatrice che dice che vive in una casa con un grande giardino che non può essere recintato. Il suo cagnetto continua a correre incontro ad altri cani o a correre dietro alle macchine, non riesce a interrompere questa sua abitudine che può essere, può risultare anche pericoloso. Lo so. Beh, guarda, qui io non conosco questo cane, però spesso i cani lasciati liberi senza recinzione si mettono a fare queste cose, il motivo per cui in passato li si teneva alla catena, in quel caso ovviamente non siamo d'accordo, però dovrebbe tenere il suo cane in casa, fuori di casa lavorare con il guinzaglio al passaggio delle macchine, delle persone, e poi cominciare a liberarlo. Però anche qui ci sono le famose 3S che sono supervisione, supervisione, supervisione. E anche qui consiglierei il lavoro con un bravo collega. Allora, Angelo ci deve lasciare, ma altri sai amici mi spiace molto. Tanto. Lo so, siamo irresistibili. Te ne organizziamo una, guarda, non appena troviamo qualche notiziola interessante. Benissimo. Siamo qua pronte. Allora, vi devo subito dire che non sono tra i personaggi degli Aristogatti, come no, ci scrive Enrico. Neanche chi sono? La carica dei 101, quindi togliamo di mezzo tutti i cartoni animati, Nicoletta, che sì, dice un altro aiutino l'abbiamo dato? Sì, vediamo, ormai dobbiamo svelare? Lo svegliamo già, aspettiamo alle 12.15, guarda, dai, due dai, minuti dai. Di tempo, via, sentiamo, dobbiamo presentare ancora un sacco di ospiti e ascoltare anche Flavia. Che pensateci, magari... Rollo, Carlo e Barone, dai. Cioè, tutti i giorni cercate le cose su Wikipedia, oggi non vi potete impegnare un attimo anche ad andare a cercare. Ecco, però forse è arrivato. Ah, chi è? Aldo, da Trento. Ah, sì? Allora, no, da Trieste. Da Trieste, l'hanno trasferito momentaneamente a Trento, dal nostro centralino. Sempre freddo buffo. Guarda, 15 sotto, Trieste e Trento. Ecco. Ah, eccolo là. Aldo, allora, chi sono? E allora la mia risposta dovrebbe essere che sono i cani di Jack London, di Emily Dickinson e di Carlo Levi, sì. Scritti nel libro Misteriosa Devozione di Carlo Zanda, che è in linea con noi. Wow. Bravo, anch'io applaudo Aldo. Bravo, bravissimo Aldo. Come si è impegnato, mamma. Ha letto il libro. La figliola, sì. Quindi siete amanti degli animali in quella casa, io già me lo ho sento. Ho un cane e due gatti. Ecco. Vedi, quindi, vedi, ottimo. Par condicio. Grazie, allora, Aldo. Grazie, Aldo riceverà a casa 2 libri. Ecco, non perché, questo perché ce l'ha già, ecco. Però uno di cuore e uno di denari, perfetto. Va bene? Aldo? Grazie, Aldo. Grazie a voi. Grazie a lei. In linea con noi abbiamo Carlo Zanda. Carlo, eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. E complimenti ad Aldo. Aldo è stato bravissimo. Doppiamente bravo. Allora, ci racconti la storia di questi tre cani, di Rollo, Carlo e Barone? Rollo, Carlo e Barone sono stati delle presenze molto, molto importanti nella vita dei loro padroni. Sì. Non solo nella vita delle persone, ma anche nella vita degli artisti che sono stati. Se volete sapere brevemente, ormai ci hai messo. Ovvio. Emily Dickinson è stata una grandissima poetessa americana che ha vissuto gran parte della sua vita chiusa nella sua stanza, dove meditava e scriveva. I biografi la descrivono sola nella sua stanza, ma non è così, perché per circa 15 anni è stato con lei Carlo, testimone muto della sua creatività e anche sua guida in qualche modo. Certo. Non è un'esagerazione, perché è lei che lo dice. Senti, e Rollo invece? Rollo è stato il compagno di un altro Carlo. Come Carlo? Rollo è stato il compagno di giochi di Jack London. Sì. Di Jack London quando aveva 8 anni. Osservando i comportamenti di Rollo, London ha capito che i cani non agiscono solo per istinto, sono dotati di una rudimentale intelligenza che li rende in qualche modo lontani parenti. Guarda, in effetti lui aveva anticipato quello che la ricerca ha dimostrato, e l'abbiamo proprio commentata con Claudio Mencacci sui circuiti neuronali dei cani. Bellissimo. Io ho raccontato questa storia a Mainardi. Sì. Lui non aveva letto il saggio di London di cui stiamo parlando. Lui mi ha detto: è stato un anticipatore del cognitivismo, dell'etologia cognitiva. E vedi che ho detto una cosa come Mainardi. Tutto torna. Senti, invece Barone? Beh, Barone è stato fondamentale nella vita di Carlo Levi, un grande scrittore italiano, autore di Cristo si è fermato Eboli, perché Levi era stato condannato dal fascismo al confino. Lui torinese era stato sbattuto in un paesino della Basilicata, e senza la compagnia di Barone la sua vita sarebbe stata molto molto difficile. E Barone è uno dei protagonisti di Cristo si è fermato Eboli. Tu racconti, Carlo, queste storie e altre, perché sono 44 le storie di amicizia tra scrittore e cani che racconti nel tuo libro Una misteriosa devozione, e proprio attraverso il rapporto che tra lo scrittore e il cane tu racconti anche tratteggi una figura dello scrittore inedita un po', no? Perché quando noi ci rapportiamo con i nostri amici animali siamo tra virgolette senza armature, senza difese, siamo veramente noi stessi, con loro non ci giudicano e noi siamo proprio, no, molto sinceri. E quindi in questo modo dai una lettura anche di questi scrittori. Sì, è un modo laterale, sì, diciamo, di osservare la vita ma anche l'opera degli scrittori, perché normalmente si ha un po' di pudore quando si parla dei sentimenti più intimi. Le persone hanno più pudore. Io, incontrandone molti scrittori che mi hanno appunto raccontato la loro relazione profonda con i loro cani, ho visto che queste difese un po' calano e ci si abbandona più facilmente alla verità, in sostanza. Poi naturalmente sono relazioni che cambiano segno, come le relazioni tra le persone, certo. Le relazioni tra gli uomini e i loro cani possono assumere forme molto diverse, no? I cani possono essere di volta in volta compagni di giochi o di sventura, ma per Malaparte era un fratello, Febo, lo chiamava Febo Malaparte, per Freud era un'antenna sensibile, la cagnetta di Freud era presente durante le sedute di analisi e reagiva a seconda di come il paziente affrontava l'analisi, cioè ne avvertiva l'inquietudine oppure la rilassatezza. Era una sorta di assistente. E Freud scrive, non sbagliava quasi mai. Ma lo dice seriamente, non è che lo dice perché è una battuta di spirito. Allora, ricordiamo il titolo del libro di Carlo Zanda, Una misteriosa devozione, Marcos e Marcos editore. Grazie Carlo per essere grazie stato con noi. Come si chiamano i tuoi cani? Ieri sentivo una cagnetta. Sì, è una segugia molto simpatica che si chiama Cara. Cara. Ottimo. Cara e poi diventa carissima. Grazie, grazie Carlo Zanda, Carlo, tanti grazie auguri. A voi, grazie a voi, auguri, auguri. Qualche messaggio, lo leggiamo sì, velocemente. E anche abbiamo anche esatto, i nostri vabbè. Amici che ci stanno chiamando. Ho vai. Un bellissimo pastore australiano che salta dalla gioia quando torno a casa talmente in alto che mio figlio dice che è un can trattino guro. Beve poca acqua ultimamente, adesso abbiamo perso Angelo Vaira, magari poteva darci qualche suggerimento. Antonio ci scrive, gireremo le sue mail ad Angelo. Il mio cane Lucky ha compattato il mio matrimonio, Lucky era il randagio del paese, ora è il terzo membro della mia famiglia, ci racconta Giordano da Lodi. Ma veramente siete in tantissimi stamattina, c'è naturalmente anche l'esponente dell'organizzazione acquariofilaitalia.it Tommaso Aricò, che ci scrive: ricordo che i pesci in acquario sono anch'essi esseri animali sensibili ed intelligenti. Ha perso una piccola parte della nostra trasmissione Tommaso, perché l'abbiamo detto, sono ben 13 milioni i pesci che abitano stabilmente con le famiglie italiane. E noi andiamo a salutare Flavia da Roma, ci chiama all'800240024, benvenuta. Buongiorno, no, sono da Padova. Ma non che ne successo, che è successo stamattina? Ma noi vi facciamo girare, facciamo, viaggiare, esatto, dai Flavia, pensi che è bello. Geografica. Io sono volontaria in canile a Rubano, un canile del Padovano, e niente, volevo dire che anch'io ho tre gatti e un cane, tutti e tre sono Matelli, e il cane in canerlino l'ho preso dalla persona in cui c'eravate prima, una cagnetta vecchietta di 16 anni. Però volevo dire tanto, raccomandare la sterilizzazione dei gatti, perché il randagismo dei cani l'abbiamo abbastanza visto, sotto ma quello dei gatti no. Quello dei gatti è pieno di gattini, randagi, gatti, gatte che figliano. Che partoriscono, sì. Anche perché poi partoriscono anche tre volte l'anno volendo, esatto, per cui esatto. Raccomandiamo la sterilizzazione condivido. Dei gatti, ok? Perché sono bellissime, ma poi dopo quando ti lasciano la gatta appunto che ti fa 4 cuccioli, 5 cuccioli. Si moltiplica una dismisura. E no, invece c'è esatto. Anche chi è il sostenitore della teoria, magari una volta glielo faccio fare e poi lo sterilizzo. No. E lì si apre tutto un dibattito, esatto. Però ha ragione, grazie, sì. Grazie molte. Arrivederci, buon Natale. Andiamo a Parma. Sì. Buongiorno. Speriamo che sia perché la città c'è scritto giusta. Parma da Parma, ma non so, non credo che si chiami Parma. Oggi buongiorno. Ci sono andati in fumo i centralini, chissà Rosa, Nicole, Sabrina che cosa hanno combinato oggi di là. Le salutiamo, anzi tra l'altro la nostra ragazza. Ringraziamo. Per ringraziarle, sì. Che abbiamo da Parma? È possibile saperlo? Buongiorno. Francesco? Francesco da Parma. Buongiorno. Mi dicono che abbia... eccolo. Buongiorno. Buongiorno. Che bella voce, Francesco. Però, ci racconti. Anche voi, una bella trasmissione, ma tutta Radio 24. Io viaggio in macchina e quindi ascolto. E complimenti a tutte le vostre trasmissioni. Grazie, grazie, Francesco. A parte una che è un po' troppo volgarotta. No, bene, non si dice. No, va bene, complimenti. Allora, Francesco, lei ha cani e figli. Io ho cani e figli e tre porcellini. Tre porcellini? Ah, davvero? Tre porcellini d'India, ovvio. Sì, sì. No, perché avere il tre porcelloni in giardino diventa un pochino impegnativo. No. Quindi, sì, no, mi riferivo anche alla telefonata di prima del signore Nea, adesso non ricordo bene. No, sì. Per certi versi ha ragione, cioè, bisogna distinguere l'animale o il cane o il gatto che sia dai figli. I figli sono una cosa e chiaramente certo. I cani e i gatti sono un'altra, questo è fuori discussione e c'è tanta gente obiettivamente che non riesce a fare questa distinzione, quindi io per i miei cagnolini non ho mai speso 100 euro o 50 euro per un cappottino. Quando si spende 7, 8, 10 euro va bene, che va bene ugualmente. Sì, certo. Questa è una parentesi. Io avevo un cane, Buck, che era un pastore tedesco. Mia figlia quando è nata, piccolina, non chiaramente in fasce, quando aveva 2 o 3 anni, dicevo: Buck, vai a prendere mia figlia, la Leti. Lui andava in giardino con la bocca, prendeva la Letizia per la cintura e la portava fantastico. Nella cuccia. Veramente. La portava nella cuccia? La in casa? Nel lettino. La riportava in casa. Esatto. Però non ho mai chiamato quando qualcuno mi diceva, una mia carissima amica mi ha incontrato in giro, mi fa, guarda, il Francesco con i suoi figli. No, gli ho detto, guarda, io di figli ne ho due, questi sono i miei cani. E sono due cose diverse. Questo, però, bravo, Francesco. Chi ha un cane deve essere con sé, o un gatto, avevo anche il gatto, purtroppo me l'ha. Insomma, sono diversi, sono diversi, ma occupano, no, un posto importante nel nostro cuore. Naturalmente i cani non sono figli e viceversa, però quando uno fa entrare dentro la propria casa un animale, naturalmente con questo animale si instaura una relazione e diventano parte proprio integrante della nostra famiglia, Francesco. Certamente, uno deve essere consapevole che ha un animale in casa. Io in questo caso ne ho due, più i tre porcellini. Il gatto purtroppo è andato fuori, è passata una macchina involontariamente, me l'ha ucciso. Oh, che brutte storie. Francesco, grazie, buon Natale, auguri. Buon Natale grazie a lei anche voi, e a tutta la sua numerosa famiglia. Mamma mia, che mal di pancia, ma che male mio. Chi ama gli animali dovrebbe amare anche i topolini, ma non sempre così, perché i topi mangiano e danneggiano il cibo, arrecano danni e trasmettono anche delle malattie pericolose, Deborah. Sì. E secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, pensa che metà degli incendi sviluppati nelle proprietà agricole in Gran Bretagna sono proprio causati dai topi. Piccoli, piccoli. Eh sì, perché rosicchiano i filetti. Certo. L'unica soluzione intelligente e percorribile è quella di assecondare l'ecosistema, restituendo i ritmi consueti alla natura, per cui i topi, non riproducendosi in modo iperattivo, ma secondo i cicli consueti, possono lentamente tornare alla normalità delle loro funzioni. Allora, per assecondare i ritmi della natura, allontanare anche gli ospiti un po' scomodi, c'è chi ha ideato un biorepellente, insomma una bella idea che è stata studiata insieme all'Università di Roma e Napoli ed è stata brevettata e ha pensato e ottenuto tantissimi premi. Il più prestigioso è il premio Cartier all'Imperial Europe come migliore azienda in Europa per il 2014 e consegnato addirittura dal presidente di Cartier a Deauville. In linea con noi per raccontarci tutto questo la dottoressa Carla Delfino. Buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Ma dottoressa Delfino, avete pensato ai topi? Intanto una bellissima idea, pluripremiata. Perché i topi, insomma, vivono con noi da sempre, sono i nostri compagni, non li amiamo molto per una serie di ragioni, ma vanno rispettati. Sì, perché oramai non è più possibile ucciderli con i topicidi perché sono molto inquinanti e sono molto pericolosi. Per questo, dopo una serie di studi molto complessi, abbiamo praticamente clonato quello che fa la natura. La natura si difende, le piante che non hanno i piedi si difendono con una serie di oli essenziali e di elementi naturali per liberarsi dai parassiti e dai roditori. E noi abbiamo inventato Scappatopo. Scappatopo è proprio questo repellente che usa la conoscenza, la grande saggezza della natura in modo assolutamente naturale per liberarci dai topi, per allontanarli dalle aree dove noi non vogliamo che stiano. È geniale, eh? Incredibile. Quindi vi siete un po', avete fatte piante, avete copiato i meccanismi delle piante. Abbiamo studiato la tradizione, abbiamo studiato la natura e poi ci abbiamo messo del nostro, naturalmente, perché l'efficacia di questo prodotto è sensazionale. Io ho continuamente clienti che mi telefonano e mi dicono: ma funziona pure per quell'animale, funziona pure per quell'altro animale. Cioè, in effetti, noi abbiamo inventato un repellente ad ampio spettro che funziona per moltissimi animali, perché dà fastidio agli animali ma non dà fastidio all'uomo. Non è pericoloso per gli animali domestici, perché questo è importante. Tantissimi animali domestici muoiono avvelenati dalle esche che i padroni lasciano per i topolini. Invece questi allontanano i topi senza danneggiare gli animali domestici, quindi agli uomini non mettere il biorepellente per me, perché hai visto, non mi fa nulla. Niente da fare, su Scappatopo non trovo informazioni. Scappatopo.it. Grazie alla dottoressa Carla Delfine, buon grazie lavoro. A voi. Bene. Buon Natale. Allora, buon Natale anche da parte mia, che da domani ti lascio sola per qualche giorno e io, come dire, mi faccio questo ponte fino al 1 gennaio, poi riprenderò le redini di Cuore e Denari. Nicoletta, tanti auguri di buon auguri. Natale. Auguri, auguri anche a voi, a buon te, Natale. A Marco Lombardo, a Laura Vanossi, a Isotta Scerna, a Carmelo Lauricella, una squadrona che è non finisce apposta più a prenderli. E insomma a tutti, noi ci risentiamo presto, auguri a tutti, buon Natale, buone feste.